Italia in controluce. Oggi è il 19 marzo, Daniele Biacchessi per Italia in controluce. Ogni giorno in due edizioni potete ascoltare il reportage sulla cronaca italiana su Radio 24. Oggi siamo nel nord-est e torniamo lungo le strade del miracolo economico per una storia importante, drammatica e nascosta, ambientata a Padova. 18 suicidi per motivi legati a problemi economici in un anno e mezzo nel solo Veneto. La crisi ha colpito fortissimo il tessuto economico del nord-est, fatto di piccole imprese, principalmente artigiane, a conduzione familiare. Nell'ultimo mese ben 4 imprenditori del padovano hanno deciso di smettere di lottare con fisco, banche e scarsa competitività. Convinti di salvare almeno l'onore, l'hanno fatta finita. Ci spiega l'origine di questo disagio la collega della redazione padovana del Sole 24 Ore, Cati Mandurino. La crisi ha cambiato profondamente il modello economico del Veneto e del Nord-Est per due motivi principalmente. Prima di tutto perché l'economia di queste regioni è sempre stata manifatturiera e questo è il settore più colpito dalla crisi. Poi perché il tessuto imprenditoriale del territorio è fatto di piccole e medie imprese, di artigiani, di piccoli imprenditori edili. Pesa il sottodimensionamento e la sottocapitalizzazione. Il concetto di aggregazione è ancora in stato abbastanza embrionale, quindi la crisi che colpisce un'azienda piccola perché dalle banche non ha lo stesso credito di prima o perché avanza crediti dalla pubblica amministrazione ne decreta la fine. Un'impresa grande affronta con più mezzi lo stallo, una piccola è più a rischio. E la dimensione piccola e il grande numero di aziende fa sì che ci siano maggiori casi di fallimenti o chiusure aziendali o addirittura, come vediamo in questi giorni, casi di suicidi da parte di titolari d'impresa. Le istituzioni locali, allarmate da questi tragici eventi, hanno deciso di cercare un rimedio. La Camera di Commercio di Padova, ad esempio, ha istituito un numero verde per dare supporto a chi è in difficoltà, soprattutto sul piano psicologico. Ci spiega l'iniziativa il presidente dell'ente, Roberto Furlan. L'impatto della crisi, atteso per il 2010, impone che le azioni destinate al sostegno economico delle imprese e dei lavoratori facciano riferimento anche a quelli che sono i temi del disagio psicologico. In questo senso nasce il progetto della rete di ascolto ed orientamento diffusa nel territorio allo scopo di non lasciare soli gli imprenditori e le persone, quindi anche i lavoratori. Gli eventi tragici delle passate settimane hanno imposto però di gestire il problema con l'attivazione di un numero verde come momento di ascolto di emergenza. Il boom di telefonate conferma la delicatezza del momento e la necessità di adottare azioni di significativo impatto, azioni che devono necessariamente superare con rapidità lo strumento del numero verde per radicarsi profondamente nel territorio attraverso strutture antenne di ascolto e sufficienti ed efficienti sistemi di risposta. Il risultato? In una settimana dall'apertura 120 le telefonate, 50 delle quali legate al mondo dell'imprenditoria locale. Ma chi sono e cosa chiedono le persone che domandano aiuto? Lo abbiamo chiesto a Federica Bruni, una delle operatrici, nonché tra le responsabili del progetto. Quello che abbiamo ascoltato è lo sconforto e il senso di isolamento che questi imprenditori vivono, anche perché finora si sono sempre un po' arrangiati, quindi si scoprono soli, ma fino a 2-3 anni fa erano autonomi, non soli, ecco. Non abbiamo ricevuto telefonate da persone che hanno manifestato disagi profondi, nel senso da chiedere l'attivazione di un servizio specialistico psicologico. Ha chiamato più di qualche donna, anche qualche parente, ma insomma più di qualche donna che dice: io sono la moglie oppure la sorella dell'imprenditore di questa nostra piccola azienda familiare, vedo che il mio fratello o marito, quel che è, sta girando come un matto, cerca di venirne fuori, secondo me sta soffrendo molto più di quello che vuole dirmi. Ma se le banche, la politica e le istituzioni continueranno a ignorare, i call center magari salveranno vite, ma non certo il tessuto economico. La soluzione allora sarà ridimensionare, come suggerisce il presidente dell'Associazione Industriali di Padova, Francesco Peghin. La profondità di questa crisi, che si è appena cominciata a percepire nei suoi effetti sociali, probabilmente durerà qualche anno e quindi credo che ci si debba abituare a fare un passo indietro nei consumi, nelle abitudini di vita e tornare forse con un approccio più simile a quello che c'era nel dopoguerra, negli anni quando il nord Italia non era un'area di così elevato benessere.